America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Bruxelles, Mario Platero. Freedom of speech, freedom of assembly, fair and free elections. Those are fundamental rights. Now, Mr. Putin has a different view on many of those issues. La questione ucraina, la richiesta alla Russia di fare marcia indietro sulla Crimea e dai territori orientali, l'incoraggiamento per un incontro in tempi brevi fra Vladimir Putin e il nuovo presidente ucraino Petro Poroshenko hanno dominato la cena al vertice del G7 che si è aperto eccezionalmente a Bruxelles ieri sera al Palazzo del Consiglio d'Europa Justus Lipsius. Il messaggio forte e unitario nel documento finale, documento politico, perché la riunione di ieri sera è stata politica, quella di oggi sarà sull'ambiente, sull'economia. Il messaggio, dicevo, è stato chiaro: occorre una soluzione rapida. Il documento finale sulle questioni politiche ha avuto come tema centrale quello dei focolai internazionali. Nel comunicato di ieri sera i sette grandi affrontano nell'ordine, dopo l'Ucraina, la questione siriana, il problema della destabilizzazione in Libia, il cessate in fuoco in Mali, la necessità di restituire stabilità alla Repubblica Centroafricana e di preparare elezioni trasparenti quanto prima, il negoziato per il disarmo nucleare in Iran, la Corea del Nord. In generale ciascuna di queste tematiche esprime un livello di preoccupazione e di tensione non da poco. Pensiamo soltanto a quello che sta capitando in Siria, 165.000 vittime civili, ma sull'Ucraina, sulle interferenze russe, sulla necessità di restituire i territori occupati che il comunicato dà ampio spazio. Ecco, e Putin, ma Putin come reagisce? Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. Президент Руссо ha mostrato così normalità di non essere eccessivamente preoccupato da quel che sta capitando. È un grandissimo attore, poi in fondo qualcosa ha ottenuto, perché nel lungo comunicato di ieri non ci sono state nuove sanzioni, la riaffermazione che le sanzioni potrebbero esserci, una discussione su cosa potrebbe farle scattare, visto che sulla carta la Russia per ora vuol dare l'impressione di aver arrestato la minaccia militare, anche se, e lo sappiamo, sono militari russi che coordinano l'azione dei ribelli in Ucraina orientale. Mosca inoltre sta negoziando con Kiev sul gas, e lo stesso Vladimir Putin ha detto di essere pronto a vedere Barack Obama già venerdì ai margini della colazione che celebrerà in Normandia il 70° anniversario dello sbarco. Ma anche Obama prima di lui aveva detto di essere pronto a incontrarlo, seppure informalmente, e l'idea è che i due si vedano durante la colazione che si terrà in Normandia. E nel frattempo però Putin è corteggiato allo stesso tempo dai leader occidentali, ciascuno che cerca una mediazione, e improvvisamente questa sera Parigi sarà al centro dell'attenzione. Parigi perché François Hollande, David Cameron, Angela Merkel hanno già tutti in programma degli incontri per dei bilaterali. L'obiettivo è quello, vi dicevo, di una mediazione, di costruire presupposti per una soluzione di quei prossimi due giorni. Obama, per evitare il rischio di un incontro fortuito all'Eliseo, dove Hollande vedrà invece Putin per una cena minore, tra virgolette, ha chiesto che il loro dinner avvenga in un ristorante parigino. Ecco, noi ci occupiamo molto di questi dettagli. L'America invece è preoccupata dal prigioniero liberato, il prigioniero americano liberato in Afghanistan. Avete sentito le voci, i rumori di un elicottero e il video rilasciato dai talebani sulla liberazione del loro prigioniero americano, il sergente Bol Bergdahl. Si tratta oggi del problema più grave e imbarazzante per Barack Obama, perché è finita che questo video ha dominato le news americane. Nessuna rete televisiva ha dato spazio adeguato al discorso storico di Varsavia o al G7. Ha dominato invece quello che viene percepito come una seconda Bengasi, un granchio colossale di politica estera, uno scandalo che ha già schierato repubblicani da una parte e democratici dall'altra. La vicenda del prigioniero americano, la storia di Bol Bergdahl, dei suoi genitori hippie, del padre che si reca alla Casa Bianca su invito d'Obama, che vuole dargli la buona notizia sabato scorso sulla liberazione del figlio, ma poi quello si mette a ringraziare, pensate, in arabo Allah, Insomma, si sta trasformando questa vicenda in uno dei più disastrosi incidenti di pubbliche relazioni dell'amministrazione Obama. Per la Casa Bianca la liberazione dell'ultimo prigioniero di guerra americano in mano dei talebani doveva essere un successo dopo una serie di sviluppi imbarazzanti di politica estera e si è invece trasformato in un boomerang di proporzioni colossali. Der Ratspräsident, wenn man dem Präsidenten des Europäischen Parlaments folgt, sieht erstmal weiblich aus. Infine una nota di colore su Angela Merkel. Ieri sera ero all'hotel Amigo per incontrare i colleghi americani. Intorno alla mezzanotte è rientrato il cancelliere, che alloggia proprio lì nell'albergo. Aveva un tavolo prenotato in fondo alla sala dove ha avuto una seconda cena con sei persone del suo entourage. Siamo rimasti ad aspettare, è rimasta fino alle 2:30 del mattino. Non era allegro, brillante come le capita di essere in genere, molto elegante, con una giacca rossa molto brillante. Il suo broncio deriva, secondo indiscrezioni, dal fatto che non ha avuto un negoziato piacevole con David Cameron per le nomine alle poltrone della Commissione europea. Poche ore dopo, pensate, intorno alle 6:30 si sarebbe recata per fare colazione, scende da sola con un paio di persone e la fa nella sala comune. Per lei normale, dicono quelli che la conoscono bene, dorme poche ore per notte. Del resto, se non avesse una tempra di ferro, non sarebbe il gigante politico che ha dimostrato di essere negli anni della sua gestione della cancelleria. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questo viaggio europeo del presidente Obama, li troverete su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, vi ho detto, questa sera saremo a Parigi, è stato un viaggio rapidissimo, ogni giorno una capitale, Parigi, succederanno molte cose, ci sarà il primo incontro ravvicinato Putin-Obama e dunque a Parigi dedichiamo la canzone del giorno, Frank Sinatra, I Love Paris. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment. Every moment of the year. I love Paris. Why, oh why do I love Paris? Because my love is here. Because my love is here. She's there. She's everywhere. But she's really here. Da Bruxelles è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.